Cruciani. Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Conservatore a me, che non sono riuscito manco a conservarmi il posto di lavoro, fascina. Io da Renzi pretendo rispetto. Cosa devo fare perché Renzi ci rispetti come Berlusconi e Verdini? Non possiamo mica fare delle cene eleganti come facevano quelli là, ragazzi. Ah sì? Dici che poi ci rispetta? Passami un po' la bindi, va? Ciao Rosy, come stai? Rosy, c'hai mica sul tacco 12? Ah, c'hai gli zoccoli del dottor Schulz. Ah, con la bestaglia, stai andando a dormire col bisfattolo. Ah, porco boia. Gianni, tu ce l'hai la tavernetta? Ah, non ce l'hai. C'hai il tacco 12 te, ma ce la dovevo avere. Passami ci vadi, va. Pippo, no niente, io pensavo a una cenetta elegante con la bindi, la Finocchiaro e la Turco, solo che la bindi c'ha le Schulz. La Turco è all'IKEA, con la scorta della Finocchiaro. Porco boia, ragazzi. Scusa Pippo, tu che sei giovane, perché fammi un po' capire sta acqua qua, perché... Ma Renzi, tutta sta gnocca che c'è adesso nel PD, dove l'ha trovata? Su Twitter? Il Bersani vero? Il Bersani vero, cioè quello che si era presentato come premier nel febbraio del 2013, ha sostanzialmente perso le elezioni, poi ha avuto un'operazione molto grave alla testa, eccetera, eccetera. Adesso è tornato battagliero contro Renzi, perché evidentemente... evidentemente gli vuole far pagare qualcosa, fa parte della minoranza. Renzi ha preso il 40,8 alle europee, lui invece dice governa col mio 25%, il che è vero, cioè è vero che Bersani governa col 25%, nessuno dice il contrario, è vero, è merito rispetto, perché il rispetto in politica non esiste, in politica esistono le decisioni che si prendono a maggioranza e la minoranza ci deve stare. In Italia invece cosa succede di solito? Che uno dice una cosa, la minoranza ne dice un'altra, si mettono d'accordo e esce fuori un pastrocchio, cioè quello che viene chiamato il compromesso di solito è un pasticcio colossale. Cioè se Renzi è deciso sull'articolo 18, cioè sulla possibilità di licenziare le persone, deve andare dritto, non deve fare un accordo con la minoranza del PD, perché se fa un accordo con la minoranza del PD esce fuori un pasticcio. Bersani. Il PD con lui al 40%, con lei al 25%. Con quel 25% sta governando, no? Sì. Sta governando con quel 25, no? Sì. Cioè di quel 40 fanno parte anche il 25. Oh, c'è il 25, ma con quel 25 per la prima volta il PD è andato al governo dopo 10 anni di Berlusconi. Non ci sono io al governo, mi va bene lo stesso, non chiedo certo riconoscenza, ma rispetto sì. Poi chiede a Renzi di essere meno aggressivo. Adesso esco da Bersani, non vi preoccupate, adesso esco fuori da Bersani. So che non è che sia un personaggio così popolare, però comunque va bene, dai. Cioè io sono quello, lui è segretario del PD e va rispettato come tale. Io consiglierei al mio segretario, ecco, di avere un rapporto più colloquiale e più disteso e meno aggressivo con le diverse opinioni che ci sono nel PD. Il paragone che fa Sisto, Francesco Paolo Sisto di Forza però, Italia. Diciamo una cosa. No, no, no, c'è tempo, c'è tempo. Francesco perché Paolo Sisto, c'è tempo, ce ne sono due ore e mezza, non ti preoccupare. Francesco Paolo Sisto, Forza Italia, paragona il Partito Democratico alla grande Inter. Senti. Quando leggo questa formazione Civati, Chitti, Fassina, Da Torre, Bindi, Boccia, Fontanelli, Mineo, Tocci, Mucchetti e Guerra. Cosa le viene a pensare? Sembra una formazione di guerra della minoranza del Partito Democratico. Sembra la grande Inter. Sì, la grande Inter, una formazione di minoranza del Partito Democratico che praticamente spacca in maniera netta. Vedo che Fassina è molto incazzato, si può dire incazzato, e anche i toni sono toni decisi. Allora ragazzi, diciamo la verità, questi possono pure avere ragione sul carattere di Renzi, come dice anche oggi De Bortoli, il direttore del Corriere della Sera, un editoriale, l'ipertrofia e tutto quello che ti pare. Io l'ho detto più volte, non è questo il punto. Ma se questi qua, Fassina, Bersani, Dattore, si presentano alle elezioni, ma quanti voti prendono? Questo è il punto. Ma però, quanti voti prendono? Prendono 4 voti, l'unico leader è Renzi, diciamo la verità, questi qua non vanno da nessuna parte, vogliono solo fare un compromesso, vogliono fare un compromesso a ribasso. No, ma l'errore è che tu stai commettendo. Vabbè, ma c'è tempo, c'è tempo. Vogliamo dire una cosa che non c'entra niente con la politica. Fra pochi giorni si apre un processo che è veramente ridicolo. Anzi, ha a che fare con la politica, non ha a che fare con l'attualità di quella che leggete tutti magari sulle prime pagine dei siti, sui giornali, eccetera. Tra pochi giorni si apre un processo ridicolo. Il personaggio ha avuto anche degli screzi con me, ma non mi interessa, non è questo il punto. Io guardo alla sostanza, non ai rapporti personali che ho. Francesco Storace, leader della destra, sì. Ex presidente della regione Lazio, il quale subirà un processo per vilipendio nei confronti del capo dello Stato. Cioè potrebbe essere condannato per vilipendio da 2 a 5 anni per vilipendio nei confronti del capo dello Stato. La frase incriminata pronunciata da Storace nel 2007 è questa. Si parlava dei senatori a vita, Rita Levi Montalcini, eccetera, eccetera. Non so se devo temere l'arrivo dei corazzieri a difesa di Villa Arzilla, ma una cosa è certa, Giorgio Napolitano non ha alcun titolo per distribuire patenti etiche, per disdicevole storia personale, palese e nepotistica condizione familiare, evidente faziosità istituzionale e indegno di una carica usurpata a maggioranza. Ora uno può discutere fino all'infinito di questa frase di Storace, opportuna, non opportuna, sgradevole, volgare, dare dell'indegno al Presidente della Repubblica, nepotismo, eccetera. Ma ci sono i tribunali normali, cioè se uno si sente diffamato va in tribunale, presenta una denuncia e poi magari viene condannato per diffamazione. Il reato di... Allora, scusate, ma tutti quelli della Lega, tutti quelli dei 5 Stelle, Grillo che ha mandato a fare in culo Napolitano 48 volte dovrebbe essere portato in processo ogni giorno. Eppure Storace rischia, ripeto, non ho nessuna simpatia politica per Francesco Storace, ma non è questo il punto. È anche un personaggio molto simpatico, un combattente, quello che volete. Rischia da 2 a 5 anni per avere criticato il Presidente della Repubblica dandogli dell'indegno. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Ora, se c'è un giudice a Berlino, fra pochi giorni, quando si aprirà questo processo, dovrebbe decidere l'archiviazione di questa buffonata. Uno non può andare, non può prendere da 2 a 5 anni perché dà dell'indegno al Presidente della Repubblica. Sono d'accordo. Va bene, dai, traffico, poi torniamo. Consiglieri regionali, ex consiglieri regionali del Trentino Alto Adige, che non vogliono restituire i soldi che gli sono stati anticipati in maniera indebita della pensione del vitalizio. Un'altra vergogna italiana. Blackberry, ci proveremo più avanti, vai. Gianni da Genova, Gianni. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Condone nello stesso tempo, bravo, delle volte. Dai, non me ne frega niente, vai avanti, Gianni, forza. Non l'ho sentito da voi, da te, diciamo, no? Di parlare del Presidente della Repubblica che ha detto, in relazione alle riforme, di perdere quei privilegi cittadini, non pretendere di avere quei privilegi, di non mantenere quei privilegi, ma lui si è mai guardato allo specchio, quel nostro presidente lì, che sarebbe meglio prendere la regina d'Inghilterra, no? Non ho capito, lei sta dicendo che il Presidente della Repubblica non può parlare di riforma del mercato del lavoro perché mantiene privilegi che non esistono in altri paesi, qual è il punto? Ma lui vive con 100 euro, con 1000 euro al mese, non lo so. Vabbè, ma che c'entra? Il Presidente della Repubblica secondo lei dovrebbe vivere con 1000 euro al mese? Ma non parlo di 1000 euro, ma scusa, se gli operai che hanno magari dei figli a carico devono pagare l'affitto, devono anche mangiare qualcosa. Ma non ho capito, Gianni, lei che cosa rimprovera a Napolitano? Intendiamoci bene, perché altrimenti le chiudo il telefono in faccia. Che cosa rimprovera a Napolitano, senza straparlare? Che cosa rimprovera? Che prende 3-4 volte lo stipendio della regina. Oh, e quello è un altro discorso, cioè che il budget del Quirinale, come di tutti... Parlare. Ma che non può parlare di sacrifici perché il Quirinale costa troppo? Mi sembra esagerato. Il fatto che si intrometta poi nell'elaborazione di un disegno di legge dicendo che deve essere riformato il mercato del lavoro, questo fa parte di un dibattito eterno sui compiti del Presidente della Repubblica. Lei però sta dicendo un'altra cosa. Siccome il Quirinale costa troppo, non può parlare di sacrifici. Questo francamente mi sembra esagerato. Sicuramente dovrebbe costare di meno. Qualche soldo che prende in più, no? Dovrebbe costare di meno. Qualche sacrificio è stato fatto? Pertini a suo tempo prendeva sì. 200 milioni al mese. Guardi che Pertini spendeva, il Quirinale costava di più ai tempi di Pertini che ai tempi di Napolitano, perché qualche cosa è cambiato, qualche risparmio è stato fatto anche lì. Poco, ancora non è sufficiente, ma è stato fatto. Stefano da Padova. Pronto? Sì, dica. Sento un po' di eco. Allora, ciao, sono Stefano. Dimmi. Io... volevo fare riferimento a quel simpatico ragazzino di Napoletano che ha fermato in quattro in moto senza il casco. Sì. Come, quello è uscito da un po' bucchino, no? Così. Sì, sì. Hai presente? Allora, io ho fatto. Allora, a me mi ha fermato in macchina, documento, ho detto la patente, ho dato il libretto, ho detto a me è uscito da un po' bucchino e mi hanno fatto 5.000 euro di multa e hanno fatto bene. Ma quando l'hanno fatto? Lei si sta inventando tutto. Sì, che sta dicendo? Con una troiata. Però, dai, come si fa? Cosa? Come si fa? Non è che è un reato dire quelle cose lì, eh? È semplicemente la fotografia di quello... Non è reato, ma veramente? No, ma se uno dice allo Stato mi fanno un buchino, a me non è che è un reato, eh? Cioè, se uno dice a un giornalista io vado senza casco, senza assicurazione, allo Stato mi fanno un buchino, non è un reato, abbia pazienza. Questo non è un reato, che poi quello venga beccato da un carabiniere senza casco, quello è un reato, è una multa. Stefano, ha capito o no? La ringrazio. Ma come la ringrazio? Di cosa? Di cosa mi ringrazia? No, perché sembra piacevole sentire queste illuminazioni. Ma illuminazioni di che? Se lei va da un carabiniere e gli dica mi faccia un bocchino, ma a parte quello non l'ha detto al carabiniere, quello l'ha detto al giornalista. Vabbè, arrivederci. Massimo, provincia di Latina. Buonasera. Dica. Allora, sono Massimo. Niente, volevo dirti, Cruciani, in pratica, che non sono d'accordo sul fatto del reato... che tu dicevi che insomma sembra reato stupido, è una legge dello Stato, come una legge dello Stato dice che non bisogna andare in tre su un motorino ad esempio, o come dice che le droghe leggere... No, senta, il reato di Vilipendio... Mi permetti di finirmi? Sì. Di finire. Solo un attimo, poi ci avrei tutto il tempo per... No, ma non è questo, tu dici c'è l'articolo 18 della... No, io dico semplicemente, se mi dai 2 minuti espongo il mio pensiero, poi rispondi... No, i minuti dipende, vai, dimmi, 30 dimmi. 30 secondi, 20, no, ma hai già detto, esiste il reato di vilipendio, dunque... Ah, no, ho già detto, cioè, ti piacerebbe che finisse così, la giusta idea. Allora, vabbè, ti dico, Massimo, secondo me il reato di vilipendio è una legge dello Stato, quindi tu per alcuni reati dici che comunque c'è stata la legge dello Stato, entra in motorino, per il vilipendio invece dici che è una legge stupida. Dici che Bersani non è tanto popolare, quelli popolari sono Bonanni e Razzi? No, dici, ma che c'entra? Ho detto non è un argomento popolare tra gli ascoltatori. Dici che Renzi è un leader, ma si deve confrontare, perché perché se Renzi dice cose di destra stando nel PD, non è che tutti bisogna abbassare la testa, capisci? Bene, hai detto la tua? Io dissimo, sì, grazie. Grazie. Allora, la questione è molto semplice. Il reato di vilipendio esiste, ma secondo me è una follia. Peraltro, ci sono due pesi e due misure, perché per altre persone che hanno insultato più volte il Presidente della Repubblica non succede nulla. Nel caso di Storace si arriva a un processo in cui potrebbe rischiare da 2 a 5 anni per aver dato dell'indegno al Presidente della Repubblica, punto. Tra l'altro Napolitano pare che non voglia nemmeno andare avanti con questa roba, che va avanti quasi per inerzia, ed è stata innescata addirittura dall'ex ministro Mastella. Va bene, Paolo da Roma, dai. Eccomi, ciao, dimmi, Cruciani, dimmi, Paolo, ciao Parenzo. Allora, solo ciao, per caro. Dire che in apertura ho sentito il discorso sul PD e sul fatto che ovviamente, come dicevi tu, non è che Fassina, Bersani e tutti gli altri, se si mettono insieme dove vuoi che vadano. Però il discorso è, secondo me, Renzi sa perfettamente che senza lo zoccolo duro del PD non va neanche lui da nessuna parte. Se fonda domani il Forza Matteo, tornerà anche lui ad avere il 20%. Bene, che io non lo so, so solo che ogni volta che la sinistra ha un leader fa di tutto per abbatterlo. Questo è il punto fondamentale. Renzi in questo momento è il leader del PD, è il capo del governo, dovrebbe decidere e la minoranza confrontarsi, dopodiché si decide a maggioranza. Questo in Italia non avviene, perché di solito ci si mette d'accordo e viene fuori un pasticcio. Questo di solito. Io Renzi spero che non avrà la tentazione di mettersi d'accordo per magari sminuire o per annacquare questo progetto di legge sul lavoro. Perfetto, io lo spero, ma spero anche nello stesso tempo che non faccia Tina, provincia colpo di testa. Ma colpo di testa di che? Governa decide, può decidere colpo la maggioranza o no? Che stancandosi crede di poter fare tutto da solo, perché questo non è possibile. Elettore te lo posso dire. Ma che vuol dire poi fare tutto da solo? Uno decide, c'è una maggioranza di governo, si decide a maggioranza, punto e basta. Tina, provincia di Milano, dai. Pronto? Dica, signora. Buonasera, dottor Cruciani, è tanto tempo che non la richiamo. Vabbè, adesso non c'è tempo, vada veloce, vada. Di gay. Stasera mi sembra che ha il piede un po' storto, ma insomma... No, il piede storto. Non è partito col piede un po' storto, no. No. Però parlando di Cruciani mi è piaciuto da morire, e quindi, di Bersani, ho seguito anch'io part-time ieri sera la trasmissione, non se ne può più di sentire questo... Caratina, la saluto, l'abbraccio, c'è il giornale radio, ciao. Ciao, mi fate ridere, siete troppo simpatici. La nuova rubrica Perché l'Italia è un paese di merda. Lasciatemi cantare questa Italia, che è un'Italia di merda, con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Allora, sì, ci sono 4 parlamentari del nuovo centrodestra, 4 parlamentari del nuovo centrodestra, è bene dire i nomi, nomi e cognomi: Giuseppe Esposito, Pietro Langella, Federica Chiavaroli, Laura Bianconi, 2 uomini e 2 donne, come avete sentito, i quali ieri che cosa hanno fatto? Hanno preso carta e penna e hanno scritto un bel emendamento, ordine del giorno, un ordine del giorno in cui, sentite, invitano a valutare l'opportunità in via eccezionale e straordinaria, con una norma transitoria, la possibilità per i parlamentari di questa legislatura di versare i contributi per il completamento del quinquennio, i contributi pensionistici. Cioè, sostanzialmente cosa vogliono questi qua? Vogliono la pensione. chiamata anche vitalizio, anche in caso di scioglimento anticipato della legislatura. Insomma, senza vergogna, ragazzi, senza vergogna. Siccome ormai si può prendere la pensione solo se si completa la legislatura e solo a una certa età, loro vogliono, anche se questa legislatura finisce, come è possibile che finisca prima, finire di versare i contributi e prendere la pensione lo stesso. Capito questi quattro signori? Ovviamente quando quelli dell'NCD se ne sono accorti, anche qui senza vergogna, facendo finta di non saperlo, no, la ritiriamo, ritiriamo, ma state sicuri che ci proveranno di nuovo. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare. Allora, un giudice, altra cosa, un giudice scrive nero su bianco, un giudice, perché alcuni stranieri si fanno, senti Parenzo, senti questa, perché alcuni stranieri si fanno migliaia di chilometri per compiere ruberie e altri reati nel nostro paese? Beh. Si chiede questo giudice, sono convinti che qui da noi se ti beccano fai un patteggiamento e ti rimettono in libertà, sanno che la giustizia non è efficiente, il sistema è tale che dopo poco si è rimessi in libertà e si può ricominciare come prima. Questa è la merda d'Italia, questo è! Se questa non è merda, che cos'è? Cioè, un giudice scrive che gli stranieri vengono qui, commettono reati e rimangono impuniti perché no, sanno di rimanere impuniti. Fermo, zitto! È una cosa vera, purtroppo. Ma è certo che è una cosa vera. E il fatto che lo dica un giudice è ancora di più. Vuol dire che deve applicare delle leggi. Vabbè, non c'è da discutere in questa rubrica. I magistrati del lavoro, senti quest'altra cosa, i magistrati del lavoro vogliono bloccare la riduzione dei compensi dei funzionari del Parlamento. Cioè, ci dovrebbe essere un tetto, 240.000 euro dei dipendenti pubblici al massimo possono guadagnare. Ma i funzionari di Camera e Senato non ne vogliono sapere e hanno chiamato in causa la magistratura del lavoro. Insomma, vogliono continuare con il solito andazzo. La Camera e il Senato vogliono fare come vogliono. Vogliono fare come cazzo vogliono. Se ne fottono di tutto. C'è un tetto? Ce ne fottiamo. Chiamiamo la magistratura per intervenire. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. Deve dire. Un'altra decapitazione, stavolta in Algeria, ucciso un ostaggio francese rapito sabato scorso, è la quarta vittima occidentale dei fanatici del califfato islamico. Obama all'ONU, non abbiamo fatto abbastanza contro il terrorismo, l'ISIS nemico della civiltà va distrutto, uniti ci riusciremo, non siamo in guerra con l'Islam. Renzi a New York, riforma del lavoro non rinviabile, discutiamo ma decide la direzione, poi si va avanti tutti insieme, apprezzamento per il discorso di Obama. Grillo attacca la riforma del lavoro, progetto infame, poi invita la minoranza Dem a mandare a casa il Premier, la replica, il vero nemico della sinistra è il tuo populismo. Via libera della Camera, la mozione del Partito Democratico che impegna il governo a dimezzare il budget finanziario previsto per il programma dei caccia F-35. L'arresto in Vaticano dell'arcivescovo accusato di abusi sui minori e possesso di materiale pedopornografico, fermato perché poteva fuggire o inquinare le prove. Dopo il tavolo con il governo, Meridiana rinvia di 30 giorni la mobilità per 1.600 dipendenti, ma i lavoratori restano in presidio a Olbia. Maurizio da Biella. Sì, buonasera, Cruciani, sono incazzato nero. Perché? Io vorrei rispondere, se qualcuno sente, di quei signori che ha detto all'inizio, com'è che hanno detto che ha avuto, che ha dato? Guardi, una zia, 88 anni, nonna Maria la chiamo, sì. Pensione 430 euro, gli è arrivato che deve dare indietro 25 euro da quando c'è l'euro, sì. Lei già viveva, usa l'acqua fredda, non consumare il gas, mangia freddo, e se non le dai le trattengono, che ha avuto, dato, siete degli infami, scusate, sono incazzato bene. No, ma il problema è che in Italia dovrebbe essere eliminata la questione dei diritti acquisiti. Cioè, se uno ha un diritto acquisito, non è detto che non possa essere cambiato, perché si cambiano tante cose. Per cui, se uno ha preso in anticipo dei soldi del vitalizio e questa roba qui viene cambiata, questi soldi devono essere restituiti, punto e basta. Se si decide che c'è un tetto delle pensioni, che tu puoi prendere al massimo 7.000 euro nonostante quello che hai versato, si decide questo, quando qualcuno lo decide, e tu arrivi al massimo a un tot, 5, 6, 7, quello che sarà deciso. Poi, ma che vuole aggiungere? Mai taglieranno il gas a questi signori, sicuramente. Va bene, dai, Pierpaolo, provincia di Latina, Pierpaolo. Dani. Dimmi. Hai detto tante cose giuste, ma non tocca a Pertini. Pertini è stato, ma io non ho l'unico... detto che Pertini spendeva, no, di più. Detto ho detto pregnanza, che all'epoca, facendo il confronto, no, in generale il Quirinale costava di più. No. Ma no, sì, perché Pertini, se tu lo confronti con le lire. L'unico che abitava a casa sua. Ma non lascia perdere, ma pure quello abita al Quirinale, non c'entra niente adesso. Sto dicendo che il Quirinale. Casa sua. Pertini aveva, ma è uguale. Il Quirinale. Ma io non sto dicendo, che non era un, come dire, da questo punto di vista, Pertini non era un. Un Monaco. Ha fatto risparmiare 1500. Io sto dicendo che io non ho detto. Oddio, non ho detto. Andavano a restare le persone, non stavano io a fare. Va bene, d'accordo. Non ho detto che Pertini faceva costare di più il Quirinale. Ho detto che nel complesso il Quirinale è sempre costato un sacco di soldi. Poi uno deve fare il paragone tra lire e euro. È difficile farlo, eccetera. Negli ultimi anni, non solo da Napolitano, da un certo punto in poi, sono iniziati un po' di risparmi anche per il Quirinale. Non ho detto che Pertini faceva costare di più il Quirinale, chiaro? Certo, però Napolitano, Ciampi, tutte brave persone, hanno detto noi vogliamo abitare a casa nostra, e tutti i carabinieri dipendenti hanno detto: Presidente, sta buono, ci sono 1500 famiglie che guadagnano 6.000 euro al mese, e sono stati zitti. Pertini, che erano uno... Vabbè, adesso ragazzi non possiamo metterci a parlare di Pertini oggi nel 2014, Ci vorrebbe uno come Pertini. Sì, vabbè. A dopo. Sì, ciao. Certo, ciao. Fa male solo a chi non sa ridere. E la zanzara. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Padania discutono di politica, caro Parenzo, indovina chi? Discutono di politica il conduttore che si chiama Siegel e donna Assunta Almirante. Siegel, senti. Siegel. Buongiorno signora. Buongiorno a lei. Benvenuta, bentornata, non è la prima volta, credo che sia la seconda volta che abbiamo il piacere di ascoltarla, ha una voce libera. E a lei signore chiedo innanzitutto un suo giudizio sul quadro politico attuale. È una situazione politica attuale grave, è molto grave, non ci sono credo gli uomini in condizione di poter risolvere il problema attuale. Capito Parenzo? Capito. Sì, capito? La situazione è grave, dice donna Assunta, la situazione... Ma l'ha intervista come fosse Einaudi, come fosse un capo di Stato. Ma diciamo che il signor Renzi sicuramente ha sfruttato molto bene dal suo punto di vista l'aspetto mediatico. Una volta la costante dei telegiornali erano le previsioni del tempo, oggi non c'è un telegiornale che non porti l'immagine di Renzi che va in giro per il mondo a fare prodigi. Sì, appunto, per farti vedere che è giovane, che hai tante, ma non che abbia fatto un sacco di proloqui. Io l'avrei visto benissimo in Cinecittà a fare l'attore, ma non a fare il Presidente del Consiglio. Renzi a Cinecittà a fare l'attore e non al governo. Parenzo, ti sento molle però su questa storia qua, molle. Almeno lei è simpatica, no? A me quello che mi fa imbestialire è Siegel. Ma lascia Siegel. Perdere Siegel, chi se ne frega? Non tanto donna Assunta, sappiamo chi è donna Assunta adesso. Va bene. Vabbè, fate una dormita, va. Fate una dormita. Extra comunitari che invadono in una maniera incredibile nell'Italia e che quel nostro mare è diventato di tutti. È diventato del mondo, non è più italiano, è del mondo, ma non c'è nessuno che prende l'iniziativa di sorprendere questi determinati barchi. Pasquale da Roma. Sì, buonasera. Dica. Sentite? Sì, buonasera, sì. Senta, per la serie L'Italia di merda, le volevo sottoporre questa piccola riflessione. Ma dopo che Amato aveva dichiarato scusatamente, io prendo 30.000 euro al mese, bastano appena, insomma, è quello che mi spetta perché è quello che prevedeva la legge. Ma era proprio così, come dire, improrogabile, imprescindibile eleggerlo anche giudice costituzionale, così oltre 30.000 se ne fosse altri 450.000? Voglio dire, ci vorrebbe anche un po' di senso del pudore. Probabilmente Amato sarà il miglior giurista possibile, ma è una persona che ha consumato tutta quanta la credibilità che aveva. Perché da ministro del tesoro. Vabbè, ma adesso che c'entra Amato? Adesso lei se la prende con Amato, non c'entra nulla in questo momento. Squilla il telefono della zanzara, vediamo. Francesco da Treviso. Oh, ciao Cruciani. Dimmi, dimmi. Ascolta, allora, io ho fatto una cosa. Sì. Ho scritto una cosa sul blog di Grillo, quello di Facebook, sì, in merito alle alluvioni della Puglia, sì, dove loro millantavano il discorso che aiutano, cambiano, danno fondi per quanto riguarda sistemare queste situazioni. E io dico, ok, voi date fondi, ma non dite come vanno fatti gli interventi. E questo è il problema dell'Italia. Il problema nostro è che noi diamo per scontato che sappiamo fare le cose, invece in realtà non le sappiamo fare. Io non ho capito, Francesco, che cosa succede sul blog di Grillo, mi spieghi? Allora, io ho scritto questa cosa, vabbè, allora... questa critica, e loro me l'hanno cancellata. Vabbè, ma di cosa si stupisce? Mi stupisco che mi hanno cancellato una leggera critica costruttiva. E quindi se vabbè, ma io non lo so neanche... perché è stato cancellato, ma non è un problema, non è che è un diritto avere quel commento lì. Avranno cancellato perché sono fatti così, perché qualcuno avrà pensato che è un insulto a Grillo, ma non lo so se è giusto o sbagliato. Ma giustamente chi... dice questi qui che sono la rete, la gente può scrivere, chiunque, la democrazia da parte, sì. Poi gli cancellano il post critico, che non mi pare dica niente di no di ma assolutamente di no ma figuriamoci. Il paradosso è questo, uno dice l'hanno cancellato dal post di Forza Italia, beh, dice chi se ne frega, potranno decidere, invece loro no, sono per la democrazia dal basso. Vabbè, ma adesso non sappiamo nemmeno perché è stata cancellata sta roba, dai, su, non diciamo stronzate. Allora, secondo voi cosa deve fare il sindaco di Napoli? Il sindaco di Napoli De Magistris è stato condannato, la sentenza è arrivata una mezz'oretta fa, a un anno e tre mesi, se non sbaglio. Sì, a un anno e tre mesi per una vicenda che si chiama Why Not, una vicenda complessa insieme al nostro amico Jane, che è stato condannato per, insomma, per intercettazioni abusive, questa è la sostanza, per abuso d'ufficio. Primo grado, si tratta di una condanna in primo grado. Il sindaco di Napoli, il grande moralista De Magistris. Allora, coerentemente con quello che pensa, non solamente De Magistris, ma tutto l'ambiente culturale intorno a De Magistris, tutto l'ambiente intorno al quale è sempre ruotato De Magistris, io credo che dovrebbe dimettersi. Cioè, De Magistris è uno di quelli che tuonava contro le condanne in primo grado, eccetera, eccetera. Se non sbaglio, è stato condannato in primo grado per abuso d'ufficio, cioè non proprio una cosetta. Va bene, io sono ultra garantista, secondo me non si dovrebbe dimettere, ma coerentemente con quello che ha sempre detto lui, si dovrebbe dimettere domani mattina. Gennaro da Caserta. Sì, buonasera. Senti, però ti posso dire una cosa, Crucià. Dimmi, con tutte le cazzate che dici tu in radio, ti dovresti dimettere tra mezz'ora. Sì. perché il sindaco di Napoli, tu non lo sai che da quando Napoli ha De Magistris come sindaco, guarda che è cambiata molto come ma come io città, non lo so, ma probabilmente è così, mo adesso gli stanno buttando un po' di fango così, può darsi che sia così, può darsi che a parte che non è a livello mediatico, non è a livello mediatico perché c'è una condanna, c'è una perché lo stai dicendo, scusa, io sto dicendo perché coerentemente con quello che la pensa De Magistris, guarda che Luigi De Magistris è un signore, è uno dei, ma io non lo metto in dubbio, infatti secondo me non si dovrebbe dimettere, si dovrebbe dimettere solo uno che come te dice le stronzate, vabbè, d'accordo, va bene Gennaro. Senti, però il mio, mi faccio insultare da te, me ne fotto che mi insulti, no, capito? Non ti voglio insultare, il mio intervento era un altro, perché qua non bisognerebbe fare solo le riforme sui politici vitalizi e tutto quanto, qua bisognerebbe fare anche le riforme sugli top manager privati. Per esempio, ti faccio un esempio, no? Giuseppe Cruciani fa 2 ore il coglione in radio, lui è quell'altra sfardella di Parenza con la voce a trombetta, no? E prendo 20.000 euro al mese. Non lo so, non so, parla italiano, Gennaro, che hai detto? Quell'altro? La sfardella, quella la sfardella. Sfardella, che vuol dire? Che lingua è la sfardella? Non lo so, con una voce a trombettella, no? Che si mette le no, ma la sfardella, che vuol dire la sfardella? Che vuol dire sfardella? La sfardella di solito sono quei pezzi magari che non servono a nulla, vengono spostati in continuazione perché occupano dei posti. Ah, ecco, no, ma siccome per capire, per capire. Ma fammi finire il discorso, fammi finire il discorso. Ma fammi finire il discorso, sì, ti faccio finire, vai. Fammi finire, e poi sì. perché dovreste prendere 20.000 euro al mese voi, che non ne prendete 3.000 per uno, e magari con i 14.000 vengono investiti. Lo sapete che poi... Sì, magari poi te li do a te, magari te li do a te, no? Non li voglio, Cruciani, io faccio il camionista. E lavoro e sono orgoglioso del meno mio male, lavoro. Meno male. Sta bene così. Però tu lo sai come fai? Razzoli bene, spartisci meglio e poi li metti lì a fare il Robin Hood dei poveri, che poi non dai ai poveri, ma pensi per te. Ma non ho mai fatto il Robin Hood. Ma io veramente non ho mai fatto il Robin Hood in vita mia, per cui figuriamoci. Ma ti metti lì in radio, no? Ti metti a sì, mi metto in radio, fatti, sì, allora. Le belle parole, sì, ma che tu il problema tu che forse non ti stai rendendo conto che non hai più un carattere tuo personale, perché tu devi piacere alle persone, ai tuoi ma guarda, non faccio nulla per piacere a qualcuno, guardi, se c'è una cosa che non faccio nulla per piacere, guardi, non faccio niente per piacere a qualcuno. Quando ti avrebbero pestato, preso a calci in culo e ti avrebbero mandato via se magari non faresti audience, non faresti audience, sì. Ma lo sai perché dici le cazzate, allora la gente va in bestia, no? E dice guarda questo che cazzo sta di con un network della Confindustria, sì. E poi prendi pure 10-15.000 euro al mese e allora ti dà fastidio, ma l'ho detto mille volte, non mi rompere i coglioni, che l'ho detto mille volte. Ma chi? Ma tu non ce l'hai nemmeno i coglioni, tu secondo me non ce l'hai nemmeno i coglioni, io te li verrei a tassare e poi ti facessi vedere, tu non ce l'hai nemmeno i coglioni, no? Ma che ne sai come si vive con perché, un che ce l'ho? Che ho al posto dei coglioni? Hai il sacchetto vuoto, il sacco scrutale, a te non ci stanno i coglioni dentro, te lo dico io. Sacco scrutale. Ah, ho capito. Che è il sacco scrutale. Non c'hai nulla, perché se fossi una persona seria faresti informazione seria, perché tieni un network della Confindustria. Scusi, un network. Professore. Cruciani, inutile che fai le caricature. Io sono un camionista, mi arrangio. Ma non è questione di camionista, per me potresti fare pure il diplomatico, non me ne frega niente se sei camionista o no. Diplomatico, fanno tu il diplomatico che ce l'hai tu la laurea, io ce la manda, ma appena la terza media. Ma infatti va benissimo. Va benissimo, guarda. Però ti metti lì col microfono in bocca, che io sto microfono te lo metterei, lo sai tu, è meglio non te lo dico. No, dimmelo. Che sei capito, ma perché mi ascolti paglia? Allora? Perché mi ascolti, Gennaro? Perché mi hai rotto le palle, Cruciani, sempre a dire qua i vitalizi dei politici. Ma perché mi ascolti? Perché mi ascolti allora? Ma perché dovresti prendere 15.000 euro al mese? Ma perché mi ascolti? Spiegami, perché ascolti questa trasmissione allora? Perché mi fai venire nervoso, perché... Siamo in un paese democratico libero, ho telefonato e voglio dire la mia. E ma infatti mi pare che stai parlando in abbondanza, caro amico Gennaro. La trombettella di Parenzo non interviene, non dice. Ma è un po' così, è un po' così, è un po' no, in questo periodo. avete massacrato Napoli, i napoletani. Ma che massacrato, vi massacrate da soli purtroppo, vi massacrate il da soli. Il sindaco dei magistri si dovrebbe dire, ma tu si manca degno di nominarlo, quello, ma lo sai, ti devi sciacquare la bocca con l'acido prima di nominare dei magistri. Senti, Gennaro, amico mio, io non ho detto nulla. Io non ho detto nulla su te. Sì, ma no, non voglio venire a mangiare a casa tua. Gennaro. No, ma non come quello radioascoltatore che quella sera te l'ha detto con un tono particolare. Io te lo dico veramente con per farti capire chi sono i napoletani. Noi abbiamo un cuore che è un quintale. Sì, cuore. Ma il cuore me ne sbatto i coglioni del cuore. Il punto fondamentale è un altro, Gennaro. Ti ringrazio dell'invito a casa tua, però non vengo a casa tua a mangiare. Se vado a Napoli vado in un ristorante e non vado a casa tua. Però ti voglio dire una cosa: io non ho detto nulla contro De Magistris, ho detto che coerentemente con quello che pensa sulla giustizia, siccome è stato condannato a un anno e tre mesi per una vicenda antica che riguarda le intercettazioni, si dovrebbe dimettere, coerentemente con quello che pensa lui. Però secondo me non si dovrebbe dimettere. Secondo me non si dovrebbe dimettere. Ma lo sai che De Magistris parla i napoletani una volta. Oddio, Gennaro, va benissimo, parla pure i napoletani. Non ho detto che fa male, non mi interessa come ministra Napoli. Il mio intervento è stato diversamente. Perché volevo dire una cosa diversa. Che volevi dire? Prendi 3.000 euro, perché non doni 3.000 euro? Dai, costi. Ma io i soldi che guadagno me li tengo, non li do a nessuno, hai capito? Allora tu che tuteli se dici sempre che gli altri. Ma che c'entra? Ma tu pure prendi 12-13 mila euro al mese, sì. Prendi 8 mila euro e dagli a chi magari sì, sicuro, ma non ci penso nemmeno lontanamente, Gennaro. Non e ci allora sei un buffone. Allora sei un buffone. Allora sei un buffone. Sei un buffone. Adesso siamo qui a regalare i soldi, ma non dire stronzate, Gennaro. Dai, io sono pure contro la beneficenza, figuriamoci un po'. Sono contro qualsiasi forma di beneficenza, hai capito? Bisognerebbe ridistribuire i poteri economici. Che sì, ridistribuire i poteri economici. Vabbè, Emanuele da Napoli, va. Ciao, Gennà. Buon viaggio. Ciao, Emanuele. Giuseppe. Ciao, Emanuele, dimmi. Ciao, finalmente riesco a sentirti. Ho 10 secondi per farti complimenti prima di parlare. No, non mi devi fare nessun complimento. Un attimo solo, okay. Un attimo. Fermo lì. Attento al DDT, sai. Vai Emanuele, veloce, vai. Giuseppe? Dimmi, vai, veloce Emanuele, vai. Non ti sento, Giuseppe. Chi se ne frega? Luca da Milano, dai, Luca. Luca? Pronto? Sì, pronto? Dimmi Luca. Allora, volevo dire, in merito alla posizione di Renzi, che secondo me, sempre secondo me, naturalmente è un'opinione mia, Renzi è un traghettatore, come lo è stato Monti e come lo è stato Letta. Quindi lui sta semplicemente prendendo tempo sì? Per il ritorno di Silvio Berlusconi. Ma che vuol dire prendendo tempo per il ritorno di Berlusconi? Che vuol dire? Sta semplicemente temporeggiando, continua a fare promesse, che continua a dare date che non rispetta, e poi ne dà altre, e poi altre ancora. E poi altre. Vabbè, ancora, ma questo qua è un giudizio su Renzi, che c'entra il traghettatore con Berlusconi? Che stronzata è questa, scusi? Allora, lui sta traghettando lo scettro. Traghettando lo scettro, sì. Adesso, esatto. Vediamo, sentiamo quest'alta dietrologia, oltre al partito unico che avrebbe proposto Berlusconi a Renzi. Sta traghettando come l'ha traghettato Monti, come l'ha traghettato. Verso chi? Non ho capito. Verso Berlusconi. Ma chi l'ha detto? Chi lo sostiene che tornerà Berlusconi? Lo sostengo Berlusconi, io, ma Berlusconi non potrà più tornare a fare il presidente del Consiglio. Per dirle la mia idea, ma Berlusconi non può. Berlusconi non può più tornare a fare il presidente del Consiglio. Cioè, una cosa che non può succedere in Italia è che Berlusconi torna a fare il presidente del Consiglio. È un'ipotesi impossibile. Perché è un'ipotesi impossibile. Che non sta né in cielo né in terra, non è possibile. Ci potrà essere qualcuno magari vicino a Berlusconi, qualcuno che Berlusconi appoggia, ma che Berlusconi torni a fare il presidente del Consiglio è un'ipotesi che non si può verificare. È impossibile. Please allow me. Oh, si discute molto oggi, soprattutto tra i giornalisti ovviamente, dell'editoriale di Ferruccio De Bortoli contro Renzi, caro Parenzo. Così ti svegli un attimo, forse. Questo è interessante. Dal molto. Torpore ti svegli, dal torpore. No, ma io ti seguo. Sì, sì, sì, cioè, segui, certo, segui. Ma perché non ti metti ad ascoltare direttamente alla radio allora invece io di essere al telefono? Quando... Sì, sì, sì, certo. Allora, oltre ad aver dato a Renzi di personalità ipertrofica, un ego ipertrofico, il governo di una debolezza disarmante. Alcuni ministri aspetta, ma sto parlando, amico mio, aspetta, alcuni ministri scelti non per non fare ombra al premier, la debolezza delle idee, la superficialità degli slogan, cioè l'Europa che praticamente ha già capito il suo bluff, oltre ad aver detto queste cose terribili sul governo Renzi, c'è un passaggio interessante in cui dice: sarebbe opportuno conoscere tutti i dettagli del patto del Nazareno, liberandolo da vari sospetti, riguarda anche la RAI, punto interrogativo, e non ultimo dallo stantio odore di massoneria. Cioè, sostanzialmente accusa Renzi di massoneria, forse in combutta con Verdini, non so che cosa, cioè, dietro il governo Renzi la massoneria. Devo dire che è il passaggio meno convincente di questa cosa di De Bortoli, perché sembra Salvo Mandarà in questo caso, cioè, questo no, senza offesa, però sembra veramente Salvo Mandarà, cioè, il nostro amico Salvo Mandarà. Allora bisogna rivalutare pure tutti i grillini che parlano di massoneria, perché quando il direttore del Corriere della Sera mette in campo la massoneria dietro Renzi, beh, insomma, voglio dire, o porta le prove di un Renzi massone, o la massoneria dietro il patto del Nazareno, oppure no, ma più questo, sì, ho capito, più. Ma lascia perdere quello che sembra, o porti le prove che c'è la massoneria, oppure mi sembra un attacco sconclusionato, francamente, no? O sbaglio? No, sentiamo, no, no, mi sembra una cosa assurda. Uno può, va bene tutte le critiche politiche, eccetera, ma l'unica cosa assurda è questa qua. Non si può dire dietro il patto del Nazareno c'è la massoneria. Cioè, la massoneria, che vuol dire la massoneria? Chi c'è dietro? Verdini, il grande ordine democratico, da chi prende ordine Renzi? Cioè, sembra veramente che dietro ci sia la Spectra. Hanno ragione quelli che parlano di Bilderberg, di massoneria. L'altro giorno chi è che ce lo diceva? Becchi, no, Becchi, qualcun altro che ci parlava di massoneria dietro Renzi. Ma dai, su, è ridicolo. Cioè, De Bortoli non può mettersi a livello di Mandarà o di altri. Dopo la pubblicità, grande ritorno alla Zanzara, Don Giorgio De Capitani. Don Giorgio, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Andiamo su con la voce, eh. Volevo dirti anche una cosa dopo Don Giorgio: perché non chiamiamo in diretta gli amici di Villa Wanda? Sì. Mazza, una cosa nuova. Chiamiamoli un attimo. Sì. Villa Wanda è dove c'è il nostro Licio Gelli, che però mi dicono sta molto male, sta molto male, sta molto male, sì, sì, potrebbe anche, insomma, lasciarci, potrebbe, no. Potrebbe, sì, mi dicono che sta molto molto, no, male. Perché gli dici così? No, potrebbe, ho detto, noi non auguriamo a nessuno la morte, sto dicendo che qualcuno mi dice che sta molto molto male. Don Giorgio? Pronto? Come andiamo? Benissimo. Lei si è trasferito da Rovagnate a dove, Don Giorgio? In casa privata, sono pensionato. Beh, l'hanno fatta fuori finalmente, no? Sì, finalmente. No, finalmente, nel senso che lei così è più libero di parlare, cioè. Infatti, sono più libero di parlare. Da Rovagnate, dove abita adesso, scusi? Non posso dirlo, se no sono sotto minaccia. Ma minaccia da parte di chi, scusi, Don Giorgio? Insomma, ultimamente dei nostri bravi. Chi? Non lo so, quelli che sostengono i Marò. Ah, quelli. Ah, perché lei ha scritto che cosa? Lei ha scritto contro Giulia La Torre, la figlia di La Torre. Non dica stronzate, deve pregare in ginocchio la clemenza degli indiani, è così? Più o meno. No, beh, più o meno, adesso non si tiri indietro, lei è un uomo di battaglia, non è che può ritrattare quello che ha detto. No, ritratto niente. Che cosa ha detto esattamente? No, esattamente ho detto che, anzitutto, che non vanno giudicati come se fossero degli eroi, come dei patrioti, perché due persone, per modo di dire, che sono solo navi, sì, sono una petroliera a difendere dai pirati armati, non sono al servizio della patria, in poche parole. No, lei dice sono al servizio di privati. E beh, sono servizio dei privati, sì, dai, siamo sinceri. Beh, oddio, però sono là perché c'è un accordo tra gli armatori privati e il governo italiano. Beh, purtroppo sì, però io... Cioè, secondo lei non dovrebbero proteggere navi private di armatori privati? No, perché non penso che le banche siano protette dal governo, ecco. Quindi... E poi, cosa rimprovera? Cioè, non sono eroi, prima cosa, poi? E poi anche il governo che veramente abbia fatto un caso così come se fosse una cosa prioritaria, ecco, io dico, non capisco cosa ci sta dietro, ecco, tutto qui il problema. E cosa c'è dietro? Ci sono Non lo so, non lo so. No, però perché si è rivolto in quel modo nei confronti di Giulia Latorre? Perché sul primo post, il primo post che ho fatto su Facebook dicevo, beh, come io sentivo poco fa, sì, no, l'Italia è merda, perché l'Italia dovrebbe scendere in piazza per difendere i due Marò, io non capisco perché tutta l'Italia dovrebbe scendere in piazza, casomai dovrebbe scendere in piazza per altre cose molto più importanti. Cioè, ormai neanche più la Pietas cristiana c'ha il prete. Cioè, ma che c'entra la Pietas cristiana? Che c'entra? Di essere, di dire la verità senza guardare in faccia nessuno. Cioè loro dovrebbero mettersi in ginocchio e chiedere la clemenza degli indiani. Ma non voglio dire, perché forse sarebbe bene anche usare un'altra tattica, un altro, e non irritare continuamente la giustizia indiana. Tutto qui il problema. Beh, no? Lei ha detto, ha scritto, implora in ginocchio la clemenza della giustizia indiana. Vabbè, ma Don Giorgio ha detto così, si rivolga a Giulia Latorre qui dalla Zanzara, si rivolga a Giulia Latorre, ha la possibilità di farlo, si rivolga a Giulia Latorre. Cosa devo dire? Ho detto, non c'è più bisogno di aumentare ancora la polemica. No, ma lei che minaccia ha ricevuto, scusi? Come? Don Giorgio, che minaccia ha ricevuto? Insomma, in tre giorni la mia pagina è stata vista da 350.000 persone, no? 8.000, 9.000 insulti, e per lettera mi è arrivata anche una minaccia di morte. Ecco, minaccia di morte addirittura? Vabbè, ma non succede niente, Don Giorgio, dai, su. Succederà niente. Però io, lo sai che cosa apprezzo? Alcune cose sui Marò addirittura la penso come Don Giorgio, ovviamente, Parenzo. Io apprezzo che... Cioè, dovrebbero rimanere lì. No, io non ho detto che dovrebbero rimanere lì. Io non capisco tutta questa grande mobilitazione. Dagli indiani. Sì, io credo di sì. Credo che dobbiamo aspettare la come dire... O ce li andiamo a prendere con la forza, o abbiamo le palle per fare una cosa del genere, oppure aspettiamo gli indiani, i tempi degli indiani, con tutte le loro contraddizioni, con tutte le loro lentezze, con la politica. Ma il governo tuteli i propri cittadini. Vabbè, ma no? Sì, certo, per carità. Soprattutto quelli che lavorano. Però, lì, Don Giorgio, hanno ammazzato due persone, così sembra, o no? No, non lo so, questo io non voglio entrare nel merito. No, entri nel merito, entri, Don Giorgio. Non lo entri. So, come faccio a saperlo se hanno ammazzato o no? Io sto dicendo che è un caso che è diventato troppo, non lo so, grandioso, sì, che impegna addirittura il governo, quando il governo dovrebbe pensare a tante altre cose, tutto qui. Senta, Don Giorgio, ma ha visto questo caso pazzesco del Vaticano che ha fatto arrestare l'arcivescovo? Sì, allora, posso dirla mia? Non vorrei, certo, che fosse un capro espiatorio, perché spero che sia il primo inizio, il primo passo, perché il problema della pedofilia nel clero è capillare, è molto diffuso. Lei quanti ne conosce di preti pedofili? È coperto ancora. Da chi è coperto? È coperto da chi? Anzitutto qui mi posso permettere una cosa, io metterei in dubbio anche la confessione, il segreto confessionale. Cioè? Adesso qualche chiesa protestante sta mettendo veramente, cioè lei dice il prete, anche se qualcuno gli dice qualcosa nel segreto confessionale, dovrebbe parlare, perché anche la pedofilia è stato coperto dal segreto confessionale. No, ma questo qua è giusto, questo è giusto. Questo scusi è giusto. Un attimo, ma io lei ne conosce di preti pedofili? Sì. Siccome dice che è una cosa capillare e diffusa, ne conoscerà evidentemente. Ma personalmente, vabbè, comunque... No, personalmente vabbè cosa? Parli chiaro, Don Giorgio. Ma io sto dicendo una cosa. Prima che... Insomma, dica, mi risponda a questa domanda, Don Giorgio. Lei è una persona... lei conosce preti pedofili, vabbè, che non sono stati denunciati? Sì. Ma quello che conosco, va bene, sono stati denunciati, però è molto più diffusa la pedofilia anche sotto forma, mettiamo, più lieve, diciamo così, no? Cioè, che significa più lieve? Vabbè, palpeggiamenti, eccetera, eccetera, di ragazzi, che poi queste cose, ma sapete dove avvenivano? Dove avvenivano? E nei confessionali. Come nei confessionali? Sì, nei confessionali. Ah, palpeggiavano la gente. Anche nei confessionali. Per cui questa storia qui, ecco, del confessionale, io dico, la rivedrei. Perché? Perché anche il confessionale. Non lo so, è una cosa che, a parte il fatto poi qui si collega il problema dei preti, perché eccetera eccetera, vabbè, il problema... Ma serve a cambiare le cose il matrimonio dei preti, Don Giorgio, oppure no? E qui potrebbe... Io dico che non c'è un collegamento diretto tra la pedofilia, però io dico sul matrimonio dei preti, io sono d'accordissimo che deve essere una scelta. La Chiesa deve il prete si può sposare. Sposarti, ti sposi, altrimenti sei libero. E anche il matrimonio gay? Sì, sì. Ah, per lei via anche il matrimonio gay? Sì. E l'adozione? Sì, sì, anche l'adozione. Vabbè, ma lei che c'è stato a fare fino adesso nella Chiesa, Don Gio? No, io scusate, io sono dentro della chiesa per aprire sta chiesa. Se io vado fuori non apro più, perché uno che è dentro può aprire la porta, può aprire le finestre e può allargare la chiesa, ma se uno è fuori, non può più parlare. Io ho diritto di parlare ancora finché rimango nella chiesa. Ma lei è ancora prete, tra l'altro, no? Sì. Mancherebbe altro. È ancora prete, non so dove, aspetta, adesso lo dico così la gente... A Dolzago, cioè dico messa a Dolzago, vado e vengo, eh? Ah, ma dove abita esattamente? Non si può dire. No, non lo dico. Dai, lo dica, così le danno quattro fragagnate in testa, quattro massaroccate in testa. Io comunque sono protetto, eh. Ah, da chi è protetto? Dai carabinieri. Ma c'ha la scorta? No, scorta no, per amore del cielo. Dopo qualcuno scusi, dice... ha detto che è protetto dai carabinieri, lei? Vabbè, qualcuno, insomma, ecco. Ma che vuol dire? C'ha la scorta o no? Don Giorgio, no, lei parla per me. Scorta, dai. Vuol dire che ogni tanto girano, lo passano, si interessano, vedono, eccetera. Ma... Comunque, l'ex nunzio, quello polacco arrestato, sì. Lei ci crede che è stato arrestato? Ma... Cioè, comunque... non crede manco che è stato arrestato? No, ma non è questo... I giornali, adesso prima si parlava dei giornali. No, ecco. Comunque aspetti, questo prete frequentava i sobborghi di Santo Domingo, perché sì, era stato Santo Domingo, sì, dove sì. Adescava ragazzine, esatto, e comprava anche prestazioni. Pagamento. Ma fino adesso nessuno ha parlato di questo qua, perché nessuno ha parlato? Ma quanti cardinali hanno fatto queste cose anche in... Cioè, secondo lei in Vaticano oggi è pieno di cardinali? Vai, nel Vaticano ce ne sono, non vorrei che fosse un rifugio un peccatorum, Ce ne sono tanti in Vaticano. Tutto riesco con la protezione. No, ecco. Però è una cosa che bisognerebbe affrontarlo con più decisione. Ah, e come? Il Papa ha fatto arrestare questo, oppure è semplicemente uno specchietto per le lodole? Esatto, io penso così. Cioè, lei sta dicendo che il Vaticano è pieno di pedofili. Ma che no, la fanno che franco. Pieno. Beh, questo ha detto. Vabbè, ce ne sono, come ce ne sono dappertutto, come ce ne sono ovunque. No, qui non ce ne sono di pedofili. Vabbè, comunque il problema... Comunque, Don Giorgio, lei ha visto che Berlusconi è ancora in vita, questo sì. Patto di ferro con Renzi, sì, che sì. Ne pensa? Allora, inizialmente la prima volta che Renzi si è incontrato con Berlusconi, ne ho detto tutti i colori. Adesso dico che Renzi dovrebbe sfruttare Berlusconi. Per fare che? Sfruttare Berlusconi. E anche a proposito di Renzi, io posso dire la mia, cioè io non sono né un renziano, non sono né del PD, perché la mia sinistra non esiste. Allora? Però attualmente, come italiano, come sono realista, sostengo Renzi a tutti, perché è l'unico. Vabbè, ma lei mi è diventato moderato, Don Giorgio. Ma non ci crede a queste storie di massoneria? Come? Non ci crede alla massoneria dietro Renzi? Dai, ma queste qui sono tu. Ecco, quando... E Salvini, il nuovo leader della destra, Salvini? Ed è l'unico rimasto. Vabbè, quello può essere. E tutti i rottami, è l'unico rimasto. Povero Cristo. Come povero Cristo? Che vuol dire? Vabbè, mi fa anche pena, dai. Politicamente parlando, no? Pena, come uomo, addirittura, pena. Va bene, poveretto, dai, non sa che cosa aggrapparsi, ogni tanto le spara grosse, come i suoi amici Buonanno, i suoi amici Borghezio, fanno ridere tutto il mondo, tanto per tirare su un po' il morale, no, della Lega. Vabbè, abbiamo qui anche un Maroni, presidente della Lombardia, che è il suo presidente, Come? È il suo presidente, pietoso. Ma perché è pietoso? Che ha fatto? No, è un bravo uomo, ma politicamente parlando è nullo. È nullo. Vabbè, Don Giorgio, comunque lei vuole che i Marò marciscano ancora in cella, questa come no? L'hai detto, questo come non no? Lo faccio dire. No, l'ha detto. Devono pagare per quello ma che hanno fatto. No, che tornino tranquilli, che tornino sani e salvi, però non devono tornare da eroi, non devono tornare da patrioti, non lo sono. Ciao, per caro. L'eroismo, il patriottismo è un'altra cosa. Ciao. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Francesco dalla provincia di Matera, buonasera. Buonasera, io volevo dirle due cose, Parenzo. No, sono cruciani, ma è lo stesso. Cruciano, mi scusi. Ah, Parenzo, oggi è come se non ci fosse. Dimmi, Francesco. Come tutti i giorni, insomma, va bene. Ma come tutti i giorni, come da un po' di mesi, ma tranquillo. Lo so, ieri il problema. Va così la vita, amico mio, va così, Francesco, vai. Come ieri il problema, sono un elettore di... Non so, cosa hai detto che non si sente, Parenzo? Parli sopra gli altri, parli quando cazzo ti pare, dimmi. No, ho detto che ieri sì c'è stato un problema e adesso ho il capolanno ebraico, come sai, tra un po' devo andare. Ma che cazzo me ne fotte a me, scusa, stiamo parlando di un'altra cosa. Francesco dalla provincia di Matera. Siccome lui diceva... Sì, Francesco dalla provincia di Matera, va bene, ma... Mi sente? Sì, sì. Volevo dirle, io sono un elettore di Renzi e sono totalmente escluso, perché nelle riforme e nelle proposte che aveva fatto non si parlava dell'articolo 18. Sì. Io sarei anche a favore di abolire questo articolo 18. Se la Camus e l'Angeletti si svegliavano un attimino e andavano a verificare l'ambiente del lavoro che stiamo vivendo, la classe operaia, che nel 90% dei casini. Non ho capito niente di quello che dice lei, Francesco. Non ho capito, francamente non lo dico. Francamente non ho capito, Non ho capito nulla, dicendo, nulla. Io sono deluso di aver votato Renzi per mandarlo al governo, perché doveva cambiare l'Italia. Io ero a favore del cambiamento dell'Italia. E allora? Però il discorso principale che doveva nelle riforme c'era la patrimoniale, c'era da rivedere tante cose, forse c'era anche l'articolo 18. Intanto ricominciamo sempre come al solito, dal piccolo dei pensionati. Io non ho capito, lei ha detto io sono deluso da Renzi, sono deluso. Sì, perché sono deluso da Renzi? Risposta. Deluso da Renzi perché la classe operaia dovrebbe essere la classe operaia dovrebbe essere l'ultima? La classe ad essere toccata. E invece dov'è che sta toccando la classe operaia? Si è dato 80 euro, in teoria non ha, in teoria... Ma vale 80 euro, ma che ce ne facciamo degli 80 euro? Benissimo, allora che qual è l'accusa? Qual è l'accusa? Che si continuano a trattare come bestie. Sì, ma come? Mi ascolti, parlare perché sono emozionato e non riesco. Ma non me ne frega niente, che sei emozionato non chiami. Non te ne frega, ascolta, se mi interrompi mi fai perdere il filo. No, Francesco, che cos'è che rimprovera lei? Il fatto che adesso voglia attaccare sull'articolo 18, voglia riformare l'articolo... rimproverando che doveva fare la patrimoniale prima di... Doveva fare la patrimoniale, 18. Ma non ha detto che voleva fare la patrimoniale, Renzi. Come non l'ha detto? Ma quando mai? Ma non ha detto mai la patrimoniale. Non l'ha detto mai. E volevo Vabbè, dire un traffico. Messaggio alla Camus e Angeletti. Mandiamo un messaggio alla Camus e Angeletti, avanti. Nei magazzini tutto lo sfruttamento che c'è, invece di fare i burocrati anche loro che cosa dovrebbero verificare? Cosa devono verificare? Il modo di lavoro e come c'è lo sfruttamento palese. Lo sfruttamento palese. Sì, c'è gente che lavora a 700 euro e tutti stranieri, poveracci loro, e noi dobbiamo sottostare alle regole perché c'è gente che prende la metà dei soldi che dovremmo prendere normalmente. Non so se mi sente? Sì, ti sento, traffico. Lorenzo da Trieste, buonasera. Buonasera a lei, dottor Cruciani. Dimmi. Il mio nome è Lorenzo Kopacznik e abito da Trieste. Io la chiamo molto brevemente per ringraziare Radio 24 per fare la trasmissione La Zanzara, ma non per la sua conduzione, sì, ma perché lei dà spazio a qualunque opinione e io per questo rispetto sì. Radio 24. Lorenzo, andiamo al sodo, su, vai. Ecco. Le posso dire che lei ha poco rispetto per le sì. persone che a 58 anni sì. sono senza lavoro. Sì. E perché non dovrei avere rispetto per queste persone, scusi? Perché lei lo ha detto molte volte. Io non ho affatto detto, io non ho assolutamente detto una cosa di questo tipo, mai. Lei può far finire un discorso? No, ma lei ha detto una cosa e io dico, sto rispondendo. Io non ho mai detto, non ho mai mancato di rispetto a chi non ha lavoro a 58 anni, come dice lei. Ecco, cioè, allora probabilmente è lei che non ha lavoro, dire, ma io... Sì. Io vorrei dire a quanti ci stanno ascoltando sì. che ci sono delle persone della mia età, sì. più giovani o più anziane, che vivono in estrema difficoltà. Vabbè, allora? E che le sue dichiarazioni su sì. questi non vogliono fare, eccetera. Questi che non vogliono fare chi? Ma lei non sa nemmeno di cosa sta parlando. No, di no, cosa no, sta parlando? No, lei sta deviando la mia. Ma che cosa? Perché qua, quando Feltri qui ha detto che a no, me, no, no, a me i poveri mi, fa, mi mettono tristezza, che cosa? Lei lasci parlare le persone se vuole ascoltare. Ma non si capisce quello che vuole dire. Non si capisce quello che vuole dire. Allora si apra le orecchie e mi ascolti molto bene. Ci sono delle persone in grande difficoltà che lei. Vabbè. Nicola, provincia di Livorno, dai. Buonasera. Ascolto la zanzara perché è molto divertente, specialmente quando Cruciani parli di omosessualità, però dovresti fare il favore di non parlare di politica perché tanto non capisci un tubo. Sì, invece vuoi capisci fare, tutto tu invece, no? Vuoi fare il tuttologo. Sì, capisci poi, tutto tu invece, no? Capisci tutto tu. Più di te sicuramente. Sì, sì, per avanti, su che, avanti, vai, forza, parli allora, forza. No, niente, ho detto tutto quello che ti volevo ma dire. Ma che devi dire, non hai detto niente, non hai detto, non hai detto nulla, non hai detto. Simone d'Arezzo, vai. Simone d'Arezzo, non c'è. Salvatore d'Agrigento. Sì, ci sono. Dimmi. Praticamente sul quotidiano La Sicilia oggi ho letto che praticamente sono arrivati degli immigrati in giacca, cravatta, trolley, al porto, sbarcati praticamente. Ma come sono sbarcati questi qua, scusa, come sono sbarcati? Sono arrivati clandestini. Sì, dubito che siano arrivati con il trolley, con la giacca e la cravatta, come dici tu, eh? Sì, sì, sì. No, no, no, tranquillo, puoi anche controllare nel quotidiano La Sicilia, c'è anche un articolo. Allora? Scusami, qua stiamo, io non sono... Ma non mi stupisce comunque, non mi stupisce, dipende come sono arrivati, certamente non sono arrivati dopo una specie di naufragio e tutto, eh? Sì, pienamente d'accordo con te, perdonami. Scusami, qui si parla praticamente di gente che arrivano morti di fame, pienamente d'accordo. Che, vabbè, ma io non ho capito, che cosa vuoi dire? Mi spieghi cosa vuoi dire un attimo? Qui in Sicilia si sta morendo di fame. Sì, si sta morendo di fame, dunque non possiamo più accettare che arrivino extracomunitari che vengono poi sovvenzionati no, da noi. Cioè... No, no, no. Qual è no, il punto? Spiegami, no, qual è il punto? Non ho detto questo. Cioè il bisogno d'aiuto allora si deve dare praticamente a chi ne ha veramente di bisogno, però dovrebbe partire direttamente dalla zona di partenza, non... Vabbè, ho capito, ciao, ciao. Allora Parenzo, devi sapere che fra pochi giorni si svolgerà in vicino Bergamo, il primo campionato del mondo di mungitura a mano delle mucche. Beh, fantastico. Cioè, un meraviglioso campionato del mondo. Primo campionato del mondo. Ma gli animalisti non vogliono. Gli animalisti non vogliono. Perché dicono che l'animale potrebbe rimetterci, insomma. E l'animale soffre. Io appena ho letto questa cosa non ci volevo credere, al di là del fatto che forse il campionato mondiale della mungitura delle mucche è un evento curioso, ma insomma non è un evento particolarmente sentito, no? Non credo che ci siano dirette televisive del primo campionato del mondo di mungitura a mano delle mucche. Ma la cosa che non capisco è perché gli animalisti si oppongono. Allora, Roberto Bennati, vicepresidente della Lab Italia, buonasera. Buonasera, a lei e agli ascoltatori. Perché vi opponete, Bennati? Non ho capito. Che succede a queste vacche, a queste mucche? Ma è molto semplice, c'è una ragione concreta, proprio materiale. E qual è? Non possiamo mettere degli animali estremamente sensibili e anche abbastanza timorosi nei confronti dell'uomo, perché da secoli sono delle prede. Sì. Non li possiamo mettere in un contesto dove c'è baccano, casino. Ma come baccano, casino? Ma sono mucche. Il primo che passa non ha niente da fare, prende una mammella e, non avendo mai saputo farlo, prende e comincia a strizzare. Ma non è così, ci saranno dei concorrenti selezionati, Bennati. No, noi su questo non siamo assolutamente d'accordo. Ma io non credo, ma che vuol dire sensibili? Non ho capito, ma sono mucche, sono vacche. Tra l'altro vengono anche ammazzate in alcuni casi, come lei sa, per fare... Ma perché non le conosciamo? Forniscono latte. Il primo campionato di mondo di mungitura, non capisco qual è la sofferenza di queste mucche, allora, di queste vacche. Scusi. Allora, è molto semplice. Non è semplice. Gli animali hanno... La mammella di una mucca da latte in realtà è un organo estremamente sensibile. Sì. Non lo dicono gli animalisti perché sono dietisti, lo dice la scienza medica veterinaria, che quando fa trattare quella mammella per la mungitura dice che bisogna seguire tutta una serie di accortezze. Poi questi animali in realtà sono degli animali estremamente sensibili. Estremamente sensibili, sì. E paurosi. Le dico una cosa molto semplice. Sì, ma voglio dire, capire. Ma sono animali. Lei pensa davvero che sia un'umiliazione per questi animali? Beh, è un'umiliazione nel momento in cui li mettiamo in una posizione, in un contesto che è sicuramente una gara, dove ci sarà rumore, dove ci saranno contesti in cui loro non sono abituati. Per una mucca è una cosa estremamente delicata il rumore. Ebbene, li mettiamo in un contesto come quello e li facciamo interagire con delle persone che loro non conoscono e delle quali hanno paura, no? Perché ma non hanno paura? Bisogna arrivare prima, di cui bisognerà stringere molto e velocemente la mammella. Parenzo, di qualcosa, ti prego. Ma la mucca ha paura di che cosa? Ha paura la mucca, stringere la mammella? Cos'è che sta dicendo della mucca che ha paura? Che cosa ha paura la mucca? Ma può darsi che abbia paura, ma ce ne faremo una ragione, ci sono tante... Ma cosa vuol dire che la mucca ha paura? Perché, Aleo, perché devi dire che la mucca ha paura? Allora, secondo Bernati ha paura. È vero. Ma come si fa? Come fate a sapere che la mucca ha paura e che è sensibile? Scusi, Bernati. Ma basterebbe conoscere un pochino questi animali e sapere, ad esempio, che tanto sono sensibili che quando entrano nella camera di mungitura regolano il loro flusso di latte del giorno in funzione dell'umore che ha la persona che entra in contatto. Ma lei lo beve il latte? Io non lo bevo il latte. Perché non lo beve? Il latte, tra le altre cose, non fa così bene come tutti dicono. Siamo l'unica specie, e adesso non vorrei sconvolgervi, no, ma mi dica. Siamo l'unica specie che da adulti sul pianeta consuma il latte di un'altra specie. Capito, Parenzo, non si deve più consumare latte. Elimina dalla casa tua il latte perché stai consumando il... Che cos'è che sta consumando il... Sei fresco, bravo. Il latte, elimino il latte perché l'ha detto il bubù di turno che si spaventa la mucca. Bennati, scusi un attimo, che cos'è che sta sfruttando in questo momento? Cioè, cos'è che sta consumando chi beve latte? Sta consumando anche il pianeta, tra le altre cose. Il pianeta, cioè chi beve latte consuma il pianeta. Lo sa perché sono cose su cui sembrerebbero cose assurde, però no, sono cose assurde, però va bene. No, però se io le dico che il 64% dell'ammoniaca prodotta nel pianeta deriva dalle cacche delle mucche e dei bovini, lei mi dirà: ma voi siete matti? Però lo dice la FAO, non lo dice la LAB. Ma nessuno dice, che non devono produrre, non devono cagare. Esatto, però così avveleniamo l'acqua e avveleniamo l'aria. Però scusi, ma la mungitura, qual è il punto? Cosa provoca la mungitura? Allora, intanto, forse anche questo agli ascoltatori può essere utile sapere, perché una mucca che in natura dovrebbe vivere 40 anni in un allevamento dove viene munta ne vive 5 o 6? E pazienza, si riprodurrà, ce ne saranno altre, serve all'uomo la mucca, non si può lasciare lì. Per lei la mucca è uguale a un uomo, mi dica la verità. Io vorrei che... Ma è uguale a un uomo, secondo lei è uguale a un uomo o no? Ha la stessa importanza dell'uomo la mucca? No, non è uguale a un uomo, non è detto che però l'uomo debba farti del male o debba fare delle cose come la mucca. Vabbè, ma questo campionato si farà o no? Questo campionato purtroppo si farà. Vabbè, vedremo quello che succede. Bernati, saluto, ciao. Arrivederci. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Gastone dalla provincia di Vicenza. Luciani, buonasera. Dimmi. Ascolta, allora, probabilmente lei lo fa per fare agitatore e provocatore, perché però fa Renzo, mi scusi, ha l'intelligenza di un comodino, insomma, cioè, ascolti, le uniche bestie siamo noi. Io sono un meccanico, però ho amici che hanno le buche, ed è vero quello che diceva il signore prima. Quando io vado là, mi dicono, ascolta, spostati, perché se ti vedono, vedo una persona diversa dal solito, si agitano. Vuol dire che anche le mucche hanno una sensibilità, anche il ravanello ha una sensibilità, cioè, diciamo così, portarlo in una fiera, ha ragione quel signore là, casino, incitamento, gente che non ha mai visto una mammella, ma lasciamoli in pace, no? Ma che male c'è, sto parlando, andato via, ma che male c'è fare un campionato di mungitura di vacca? Ma qual è il problema? Guardi, guarda, nessun male. Fanno anche il campionato di tosatura delle pecore. Però lo fanno. Ma sarà controllato? Sarà controllato da quelli che proteggono gli animali, dai vari enti che ci sono in Italia, che succhiano soldi ovunque. Ascoltami, io non discuto sul consumo di latte. E allora? Se noi siamo evoluti, consumiamo latte di altre specie, che problema c'è? Non c'è nessun problema. Però trattiamoli bene, insomma, no? Ma chi dice di trattarle male? Scusa, chi dice di trattarli male? No, dico, quando uno parte da così, ma sono animali. Certo, sono animali, siamo noi le bestie. Siamo l'unico cancro del pianeta, siamo noi. Non diamo neanche più la merda, cazzo, al pianeta, perché la buttiamo in discarica, la buttiamo nei depuratori. Cioè, ma ci rendiamo conto? Natascia da Roma, ho capito che sono. Natascia da Roma. Buonasera, Cruciani. Dica. Senti, volevo proporre un altro campionato di mungitura. Sì. Magari di piselli, per vedere chi piscia di più. Prima metto te, Parenzo. Sì. Visto che sei proprio così poco sensibile nella... Ma perché? Qual è il problema del campionato animali? Del campionato di mungitura delle vacche? Tu parli solo. Qual è il problema? Qual è il problema? Ha parlato quel signore della LAV, che conosce le mucche sicuramente meglio di te. Sì. E allora? Allora dovresti saperlo anche te, che gli animali, che le mucche sono animali molto sensibili e timorosi. Sì, e allora se si fa il campionato... La regolarizzazione degli animali, non sapete fare niente se non con gli animali, pensa che triste razza. Ma non ho capito, ma qual è il punto? Non ho capito, io non vado a fare il campionato il di mungitura delle vacche. No. Tu infatti dovresti andare a fare il campionato di mungitura di piselli, ti metti in prima fila te, Parenzo, poi arriva qualcuno che ti strizza il pisello e vediamo se pisci più. Perché gli uomini e le vacche sono sullo stesso piano. Perché gli uomini e le vacche sono sullo stesso piano. Una bella strizzata sulle palle, così almeno invece di parlare stai zitto. No, ma ho capito, Natascia. Ho capito, quella magari in quelle cose là sei più esperta te, io non sono esperta in quel senso. Se vieni ti do l'indirizzo, da una bella strizzata di coglioni. No, vabbè, quello potrebbe anche piacermi. Te, Parenzo, però apparenza sicuramente quello potrebbe anche piacermi, no, è meglio che non vengo, che potrebbe anche piacermi. Ma fai parlare la gente, abbi rispetto degli animali, che sono più degni degli esseri umani. Gli animali sono più degni degli esseri umani, ma sicuramente, guarda, non c'è un animale che viene a strizzarti il pisto per vedere quanto pisci. Sì, allora? E allora impara a rispettare gli animali. Sì, perché uno non può fare il campionato mondiale di mungitura delle vacche. Io sai che spero, io spero che arrivi un essere superiore per forza, io solo per forza, no? Sì. E venga a strizzarti le palle, il pisello, per vedere se pisci più tu o qualcun altro. Sì, ma quello lo fa di solito il coso, lo sai che è l'urologo, no? Quando vai hai problemi di prostata, lo eccetera. Faccio pure io. Sì. Vieni, facciamo il campionato di mungitura di piselli, vediamo quanto pisci, se pisci più tu o Parenzo. Ma non è, guarda, si può fare tranquillamente questo ma campionato. Ma poi un'altra cosa, scusa un attimo, sì, ma perché non fai parlare la gente? Ma perché non stai parlando tu? Ma perché non stai parlando? Sì. Vabbè, e allora che vuoi? Ma stai parlando che vuoi? Perché sto parlando di piselli. No, stai parlando di un'altra cosa, non mi facevi parlare. Senti, a parte amica mia, io decido chi fare parlare e finché conduco io decido come e quando far parlare le persone. E allora la democrazia, vabbè, che tanto. Ma non c'è. Non è quella, la democrazia non esiste questa in questa trasmissione. Mascherata da democrazia non è che mi stupisce più. No, ma non c'è, non esiste la democrazia in questa trasmissione, non hai capito? C'è ma la dittatura. Devi dare la precedenza a chi interviene, capito? Perché è ospite, devi dare la precedenza, devi far parlare. Ma capito? Io devi, ma chi me lo dice tu? Capito? Ma chi me lo dice tu chi devo far parlare o no? Ma chi me lo dici tu? Io ascolto la tua radio. Benissimo. Io e gli altri che ascoltano la tua radio. Sì, se sì. No, non ascoltassi la tua radio, tu non guadagneresti soldi. Allora se vuoi spegni non mi rompere le balle. Te ne freghi pure dell'articolo 18, hai capito perché te ne senti, freghi? Senti, adesso sei partita con gli animali e finisci con l'articolo 18. Spazio, come fai tu, spazio? Vieni con me al campionato mondiale di mungitura. No, vieni da me che ti strizzo il pisello. Vabbè, quello potrebbe essere anche piacevole, Natascia. Sì, una strizzata non credo, Beh, che ne sai, magari, dipende. Molto non lo so, magari sei molto esperta in queste cose, no? Bravo, non lo so, magari sei molto esperta. per rompere le palle agli stronzi come te sono esperta. Sì, sì. Brava. Senti una cosa, ma a proposito, al giorno quanti strizzi? Qua... No, io non strizzo nessuno perché gente di merda come te non ne frequento, capito? Senti, ma io adoro questo campionato mondiale di mungitura delle vacche, sta diventando, dopo il tuo intervento, sta diventando la mia manifestazione preferita, lo sai? Tu devi promuovere il campionato di mungitura. Ma guarda, di piselli. Guarda che esisterà il campionato mondiale di mungitura di piselli, esisterà da qualche parte negli Stati Uniti. Ma comunque questa gara qui sta diventando questa gara con le mucche protagoniste. Lasciate gli animali dove stanno, vi prego. Vi prego, lasciate gli animali dove stanno. Gli animali. Lasciate gli animali come dove stanno. Circo, gli animali sono. Giraffe, cavalli, certo, il circo, ottimo, ottimo. Io non ci vado, ma ottimo il circo. Da troglodidi, uno spettacolo proprio triste. Io non ci vado, ma c'è gente che ci guadagna col circo, va benissimo. Gli animali sono controllati, sono controllati. L'uomo non sa fare niente. Si deve servire degli animali per fare spettacolo. Certo, non c'è dubbio. Giulio da Verona. Dai, promuovi. Ciao Natascia. No, no, chi c'è prima? Chi c'è prima? Chi c'è prima? Non c'è nessuno, no. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Giulio da Verona, sì, Giulio. Ti sento. Sì, ciao. dimmi. Scusami, ho perso una puntata di prima, i 5 minuti prima, ma cos'è quella lì che si mungono le vacche? Lo sa che se le vacche non si mungono vanno immastite. Bravo, bravo. Di prima, ma non vabbè, mica... ma quella là è quello che è la zootecnia pura. Se la vacca non la mungi, sì, si gonfia il petto, va in malattia, fa una cosiddetta patologia. Ma certo, certo. Quella che probabilmente avrebbe il suo fidanzato, perché quella lì è una che non gliela dà, quella cattiva che c'era prima. Perché ma dici? Ascolta, ma una così è velenosa sicuramente, guarda, ha qualche problema psicologico. Ma io volevo intervenire su una cosa velocissima. Uno, la piangeria continua dei napoletani ha rotto i coglioni. Non ho sentito uno che abbia detto, in effetti, girare in tre senza casco, senza assicurazione, in effetti è qualcosa che dovremmo evitare, di questo ci vergogniamo un po'. Dopodiché, cosa cazzo c'entra la situazione economica, lo Stato che ti aiuta se continui a infrangere le regole? Anche a me rompe i coglioni mettermi in casco durante l'estate. Credi che qua a Verona c'è caldo che l'estate, qua c'è un'umidità che si muore. Certo. Il casco me lo metto, osservo le regole, se faccio 20 metri senza casco, con l'elicottero mi placcano e mi sequestrano la moto. Dai, basta rompere i coglioni con questa storia di Napoli, che ce l'hanno tutti con Napoli e quant'altro. Le regole ci sono anche là e le osservano anche loro. Punto. Seconda cosa, articolo 18, ragazzi, fate impresa e capite cosa vuol dire non poter licenziare un imbecille che ti prende per il culo. Perché oggi l'articolo 18 è così. Sorpassato. Sei meglio tu di Squinzi, Giulio, sei meglio tu di Squinzi, no, lo dici in maniera molto più chiara, Cruciani, vai. Cruciani, ascolta. Dimmi. Se tu hai io ho 15 dipendenti, che li ho da me che lavorano da 15-20 anni, gli do i premi produzione io di tasca mia senza che siano contrattualmente previsti, perché se lo meritano. Mai mi sognerei di licenziare un mio dipendente, perché sono contento di loro. Il problema è che se hai una testa di cazzo ti fa morire, capisci? Va, lo licenzi, impugna il licenziamento, va dal giudice, il giudice propende sempre per difendere la parte debole, certo. E chissà perché il dipendente gli devi pagare gli arretrati di quando è stato a casa a menarsi l'uccello, e questo qua ti torna in azienda. È per questo che la gente non viene ad investire. Sono gli imprenditori che danno lavoro, non lo Stato, capisci? Il Parenzo, quando sento parlare Parenzo dell'articolo 18, mettiti su una bella impresettina, Parenzo, ti metti in impresa, assumi i dipendenti, allora cominci sulla tua pelle a vivere le disgrazie che abbiamo noi imprenditori. È facile fare il culatone col di dietro di un altro. Giulio, ma perché non vai a parlare ogni tanto a qualche convegno di Confindustria, a qualche convegno industriale? Sei molto meglio di quelli che parlano, sei molto più efficace, sei molto più forte. Cruciani, anche i politici che sono là a Roma, avvocati, tutti i giornalisti, gente che non ha un'impresa, scendete dal piedistallo. Se le aziende chiudono e c'è un problema reale, ci domandiamo il perché. La gente va, delocalizza, va in Polonia, va in Ungheria, va in Albania ad investire. Allora, quando sta gente si renderà conto che sono anacronistici, sarà troppo tardi, capisci? Io, perché ho un'attività turistica, non posso metterci sotto le rotelline, se no col cazzo che rimango in Italia a farmi il mazzo, per chi? Per cosa? E io i dipendenti vado d'accordo, ci vado a cena e ora mi danno del tu, per farti capire la concezione che ho io, ormai il padrone non esiste più. Però se tu non dici, ad esempio i 33 che sono stati beccati che timbravano giù in meridione nell'ASL e andavano a farsi i cazzi loro, sì. Secondo te cosa succede? Quelli lì in un paese normale devono essere licenziati come quelli che rubavano i bagagli a Milano. A calci nel culo. Invece no, i sindacati. Sai cosa fanno? Ma sai cosa fanno, Cruciani? Vengono licenziati, magari, io non lo so. Ma poi c'è un giudice che li rimette dentro. Bravo, e li paga gli arretrati. Questi stanno a casa a menarsi il piffero, ok? Dopo due anni gli vengono pagati tutti gli stipendi arretrati e dopodiché si ritrovano lì. Ma questi sono i sindacati sono i sindacati del cazzo che abbiamo avuto fino adesso, capito? Bravo, cioè, allora andiamo avanti così, continuiamo con sta menata qua. Dopo, quando saremo, che la gente va per la strada davvero incazzata come le bisce, e gli extracomunitari lavorano nelle aziende, sai perché? Perché spesso sono più bravi degli italiani, anche gli italiani, anche qua, guarda. Io ti dico, lavapiatti, facchini, camerieri, sì, sono tutti stranieri, cruciani. E guarda che da me sono tutti in regola e prendono 1200 euro al mese. L'italiano, sai cosa viene lì? Ti domanda, quando è il giorno libero? Quante ferie devo fare in un anno? Allora vuol dire che non siamo così nella merda, io penso. Perché Giulio, sei un grande, ti devo mollare, ma sei un grande. Ciao Giulio. Ciao, Marco, ciao. Sempre Verona. Marco, vai. Sì, sono io. Dimmi, Marco. Marco dalla provincia di Reggio Emilia. Sì. Sì, sono un veterinario, sono buiatra, io lavoro da anni nel settore della zootecnia e seguo tutto il giorno anime vacche da latte. Volevo dire questo, che la vacca da latte deve essere monta. Chi non è esperto non sa tirare giù una goccia di latte da una vacca e quindi può essere fatto solo per l'animale, sta bene quando viene monto. Ho capito, ma lei è a favore di questa gara campionato del mondo? Di assolutamente a favore, nel senso che so che non provoca assolutamente niente, anzi... Ma che deve provocare? Dice che soffrono, quello che è intervenuto dice che soffrono. Perché è gente che non conosce il settore. La vacca da latte è stata monta per secoli manualmente, solo negli ultimi 50 anni viene monta in modo meccanico, ma la vacca deve essere monta. Però io volevo orientare il discorso su un'altra cosa. Dobbiamo chiudere, Marco, dobbiamo chiudere. Per il benessere animale. No, ma ci sentiamo domani, Marco, mi racconta tutto domani. 18:30, ciao. Giuseppe Cruciani fa due ore il coglione in radio, lui è quell'altra sfardella di Parenza con la voce a trombetta, no? E prendono 20.000 euro al mese. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sta, dammi, mi fanno buchi. Radio 24. La passione si sente.